E allora, infatti, come avete potuto sentire, è appena arrivata un'altra corrispondenza. Dici un poco dove eri oggi pomeriggio e qual era il tuo punto, insomma, di vista, visto che numerose sono le prospettive differenti che ci sono arrivate oggi, insomma. Sì, sarebbe curioso anche sapere quali sono i punti di vista alternativi, perché io effettivamente mi sono vissuta un po' facendo avanti e indietro da Via Merulana fino a Piazza San Giovanni, fino poi ritornare a Via Merulana un'altra volta. D'accordo. E niente, fondamentalmente ci sono stati, sono iniziati dei tafferugli dove la polizia non ha cercato di fermare assolutamente niente, ha lasciato libero chiunque di fare quello che voleva. E subito dopo sono arrivati a Piazza San Giovanni, hanno spezzato il corteo e da lì sono iniziati gli scontri veri e propri. E da lì è stata abbastanza un'escalation. Chiaro. Quindi è stato un continuo in cui la cosa che mi ha sorpreso più di tutte era vedere le forze dell'ordine che avevano veramente la paura in faccia. E si vedeva moltissimo da come caricavano, dal fatto che portavano avanti solamente con le camionette, dal fatto che ripiegavano subito, riuscivano ad avanzare solamente quando le camionette liberavano la strada e quindi minacciavano i ragazzi che stavano facendo gli scontri investendoli, insomma. Io sono riuscito per un pelo a evitarli, poi la seconda me la sono presa tutta sulla schiena, quindi puoi immaginare. Ah, proprio questo era il livello, insomma. Abbiamo avuto qualche informazione al riguardo, però non so tu se hai un minimo di idea di feriti o di gente fermata, perché questo è un altro dato che ancora non si è riusciti a. Guarda, gli aggiornamenti in realtà mi sono arrivati da chi stava a casa e mi hanno detto una trentina di feriti, di cui uno grave. Hanno fatto sicuramente altri feriti dopo, perché quando hanno iniziato a caricare su Via Merulana hanno caricato con i pullman, con le camionette con gli tranchi, che sono enormi e non si fermavano davanti assolutamente a niente e a nessuno. Quindi sicuramente hanno fatto dei feriti, sicuramente hanno fatto anche degli arresti a Via Merulana neanche 10 minuti fa. Quindi tu hai visto lì a Via Merulana sta comunque continuando la situazione? Guarda, io credo che si siano sparpagliati tutti quanti, perché effettivamente non c'è neanche più fiato. Scusa un attimo. Vai, vai. Niente, era anche una situazione in cui in salita una carica della polizia comunque si fa sentire ancora di più. Beh, senza dubbio. Esatto, quindi niente, la gente ha iniziato a disperdersi. Comunque sì, Quindi insomma ci comunque. diresti sommariamente quantomeno che la situazione a Via Merulana si è acquietata adesso? Sì, assolutamente sì, si sono disperse, ho sentito anche altra gente che stava qui, si è dispersa sia sul lato destro sia sul lato sinistro, quindi credo che si sia disperso un po' tutto il corteo. Va bene, d'accordo. Allora, grazie mille di questa corrispondenza. E, insomma, se poi hai altri aggiornamenti, non temere, squillaci che ti richiamiamo, d'accordo? Assolutamente. Buon rientro anche a te e a tutte.